E eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavolo, condotto da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Io sono Pietro e quello in linea con me è Claudio. Buonasera. Stasera, Buonasera. oltre a giochi da tavola, l'argomento della serata sarà un po' più particolare. Diciamo che andremo più sulla parte della produzione e l'evoluzione di questa catena. Magari parliamo più dei crowdfunding. Che fretta che hai di introdurre il tema della serata. Claudio? Va bene. Ah, Allora, eccoti. tergiversiamo, non lo so. No, un secondo, cioè, bisogna dire le cose di rito, tipo la nostra intro è Happy Days di purpleplanet.com, oppure se ci state ascoltando probabilmente siete sintonizzati su Radio Big World, la migliore radio online free che c'è. Però vabbè, visto che sei voluto saltare oltre, saltiamo oltre. Tanto i soldi degli sponsor arrivano a te, io non prendo nessuna parte, quindi va bene. Ok. Ok. Bene, parliamo di crowdfunding. Cos'è un crowdfunding? Allora, tecnicamente, per chi non lo sapesse, con crowdfunding si intende un tipo di finanziamento per dei progetti fatto tramite appunto il pubblico degli stessi, perché Crowd sta per pubblico, Crowd, non Crowd come corvo, e funding per raccolta fondi, quindi una raccolta fondi fatta direttamente dal pubblico a cui è rivolto il progetto. Esistono diversi tipi di crowdfunding, ad esempio la maggior parte dei siti, quelli più vecchi almeno, erano rivolti alla raccolta fondi per beneficenza o per progetti a scopo, diciamo, più umanistico, come potevano essere raccolte fondi appunto per il terzo mondo o per la costruzione di edifici utili alla società. Dopodiché, soprattutto con l'avvento di Kickstarter e dopo di siti similari, il crowdfunding si è allargato alla vera e propria realizzazione di idee di vario settore, e tra queste appunto c'è anche la realizzazione di giochi da tavolo, perché molte persone che avevano l'idea e magari anche le capacità per creare un gioco da tavolo, ma non sono mai riuscite ad attirare l'attenzione di un editore, tramite il crowdfunding, quindi raccogliendo i soldi necessari per la creazione del gioco direttamente da chi il gioco lo vuole, sono riusciti a dare vita alle loro idee. Sì, Questo sì, di Claudio. cioè diciamo che è aperto un po' a altri vari mondi, diciamo, cioè il crowdfunding serve come calcio d'inizio, proprio come Kickstarter, per creare un proprio sogno che può essere sia un gioco da tavola, ma può anche essere un film, un videogioco, quello che si vuole, cioè in realtà qualunque tipo di settore può essere il personaggio. Questo però, come l'abbiamo descritto, è il crowdfunding come dovrebbe essere, quindi se fosse questa idea romantica di chiunque può realizzare i propri sogni, la realtà è Sì. ben diversa. La realtà è ben diversa per il motivo che è molto libero e quindi anche i progetti più assurdi vengono approvati e sono esposti. Non è questo, secondo me, il vero problema. Il Sì, vero, io anche perché ad capisco. esempio con Kickstarter non è propriamente così, più Indiegogo su questa linea. Il vero problema è che i crowdfunding sono diventati dei veri e propri servizi di pre-order per case editrici che i soldi per realizzare il gioco li hanno già. Sì. E questo oltre a cioè, a diventare un servizio per delle case produttrici porta anche al oscurare il concetto iniziale perché i privati vengono oscurati da questi enormi progetti che sono già Sì. sono praticamente già realizzati e Certo, perché professionali. mettiamo che un tizio qualsiasi, facciamo l'americano Jack, ha 100 dollari al mese dedica da investire in Kickstarter, no? Lo stesso mese che magari ci sono 5 giochi indie bellissimi, pieni di idee, di spirito, di sogni dei loro creatori, esce anche la nuova espansione o la nuova edizione di Zombicide. Jack si fa accalappiare dalle miniature di Zombicide quando magari vorrebbe finanziare 3 dei 5 progetti indie con gli stessi soldi, e Zombicide ha tolto un potenziale finanziatore a gente che veramente aveva davanti l'occasione per realizzare il proprio sogno, mentre la Guillotine Games e Culmini or Not, che sono dietro a Zombicide, che di soldi ne hanno a palate, non avevano bisogno di quei 100 dollari in più. No, ma soprattutto anche perché io penso che se queste case produttrici, che cosa praticamente impossibile, ma facciamo caso che non riescano a concludere il progetto perché non hanno abbastanza soldi, comunque sono in grado di poterlo produrre a modo loro nei negozi, quindi non hanno bisogno in realtà di quei soldi. Cioè, possono farlo anche senza il Kickstarter e potrebbero, lo farebbero comunque probabilmente. Sì, anzi, sicuramente. Infatti, molte compagnie serie e diciamo meno ipocrite, invece che, cioè, meno ipocrite, invece che passare da Kickstarter, hanno creato il loro crowdfunding che in realtà è un pre-order. Cioè, in realtà è un pre-order. Ad esempio, viene in mente lo skirmish di miniature Frostgrave, che ha creato il Froststarter, ovvero sul loro sito c'era un sistema di pre-order. Per Frostgrave, senza passare da Kickstarter, si sono fatti il loro sito con il loro sistema di finto crowdfunding, perché in realtà era un pre-order, non c'era una soglia da raggiungere, e non hanno pestato i piedi a nessuno. Lo stesso ha fatto, ad esempio, anche non mi viene il nome in questo momento, la Fireforge Games, sempre una ditta di miniature, tra l'altro italiana, per la nuova fazione del loro gioco Deus Vult, che erano i russi medievali. Invece che passare a Kickstarter, hanno fatto il loro Forge Starter, mi sembra, si chiamasse anche questo, sul loro sito, che anche questo era un pre-order, senza una soglia da raggiungere, semplicemente con la veste grafica e il nome da crowdfunding, quindi con lo starter, l'hanno usato più che altro come campagna pubblicitaria, ma in realtà era semplicemente un pre-order, e non hanno usato le piattaforme solite, anche perché le piattaforme solite si beccano un bel 10%. E non hanno pestato i piedi a nessuno, perché comunque hanno utilizzato i loro spazi, i loro social e i loro siti. E questo è molto meno ipocrita di una Guillotine Games, per dire, che nonostante abbia milioni di dollari, continua ogni o la Mantic Game inglese, che ogni anno continuano a far uscire ogni loro gioco con Kickstarter, quando non ne hanno assolutamente bisogno, perché possono raggiungere benissimo i negozi e hanno una catena di distributori, anzi, addirittura io direi che i distributori non do dovrebbero essere molto contenti di tutto ciò, visto che 200.000 acquirenti hanno già acquistato il gioco su Kickstarter e verrà spedito, cioè verrà gestito a spese dell'azienda produttrice, e quindi anche tutto il guadagno sarà loro. E quando arriverà finalmente il gioco a questi distributori, la fetta di acquirenti sarà minore, perché la maggior parte della gente ce l'ha già. Sì, e in più, come dicevi, le case che hanno il loro crowdfunding personale, che sia fittizio o meno, comunque è una cosa loro, mentre Kickstarter è un panorama che prende anche i privati. Quindi tu metti il tuo progetto gigante, scali tutti quelli minori, cioè comunque sei più in vista sicuramente. Mentre se tu fossi in un tuo crowdfunding personale, ci sei solo tu. Invece loro si affacciano su un panorama dove ci sono già dei privati. Dovrebbe essere fatto per loro in origine. Questi continuano a mettere i loro progetti, ma verranno oscurati perché ogni cavolo di mese una di queste case produttrici mette uno dei suoi vari giochi da tavola, pieni zeppi di miniature, ovviamente ultra dettagliate perché è un prodotto già pronto in realtà. Certo, anche perché loro comunque, ovviamente essendo professionisti del settore, hanno dei piani ben studiati di per far uscire Kickstarter, ad esempio hanno un piano annuale su che mese deve uscire tutta la campagna di preparazione con le varie immagini, trailer e quello che è, e le Sì, copie mandate ai ma recensori. credo che sia anche comunque, c'è sempre un discorso di mercato, sanno anche, probabilmente studiano anche i progetti delle altre case, quindi sanno quando non devono uscire Esattamente, facilmente, è questo il discorso. ovviamente, ovviamente. E Diciamo che quindi praticamente sì, il canale di produzione, cioè la creazione di gioco da tavola adesso viene fatta con Kickstarter principalmente. ti scontri con dei professionisti, è come quando in una fiera di fumetto c'è il piccolo editore autoprodotto con i suoi fumettini spillati che costano 6 volte, cioè che per con 30 pagine costano 4 euro, e di fianco c'è la Panini Comics o qualche altro editore grosso con tutti i suoi bei volumi tenuti bene a prezzi abbordabili. E a quel punto la persona deve scegliere se prendere il prodotto di qualità e a basso prezzo dell'editore grosso, oppure spendere di più e aiutare l'indie, magari anche rischiando di prendere qualcosa che non è di qualità, perché comunque ovviamente adesso sembra che noi siamo schierati dalla parte degli indie e ce l'abbiamo a morte con le major. Ma in realtà nei progetti indie che sono sui crowdfunding c'è anche molta porcheria, No, sicuramente, però cioè, il nostro discorso è più che altro un discorso di commercio. eh. Sì. Cioè, si è spostato tutto, adesso si basa su questo e stanno sfruttando questi siti anche perché sono i cosiddetti baker, cioè le persone che investono i loro soldi, perché si parla di investire comunque, è un prodotto che tu non conosci alla perfezione, tu lo vedi solo, non sai in realtà come funziona benissimo il gioco. Certo. Dicevo, mi sono perso. I cosiddetti baker. I cosiddetti baker, sì, sono, cioè, sono comunque gli stessi compratori che ti trovavi, però adesso che tu comunque conosci le mode, sai che le miniature prendono tanto, e tu te le puoi permettere, casa produttrice, fai il prodotto che serve ad attirare più l'occhio, mentre un privato non ha i mezzi per poter rispondere a queste cose. Anche perché comunque il privato fa quello che vorrebbe creare, non è che fa quello che vuole la gente, teoricamente. Certo. Infatti un piccolo dietro le quinte, io e Claudio l'anno scorso abbiamo tentato di fare un Kickstarter per un videogioco, non per un gioco da tavola, e quindi abbiamo anche visto come funziona dietro le quinte quando tu sei un creatore di progetto, cosa succede. E di questo ne parliamo dopo. Continuando il discorso, quindi c'è anche molta porcheria, dicevamo, perché comunque, diciamo, Kickstarter, appunto parlando del fatto che abbiamo fatto un progetto, sappiamo com'è l'approvazione. Kickstarter richiede semplicemente un minimo di serietà, ma quando diciamo un minimo, è proprio un minimo. Cioè, basta che metti una descrizione che sia un tot di righe, non contenga parolacce, sia inglese corretto e il progetto passa ed è visibile alla gente. Mentre Indiegogo, che nonostante il divario tra Kickstarter e Indiegogo a livello di esposizione sia mostruoso, è il secondo crowdfunding più utilizzato, per motivi che discuteremo dopo. Indiegogo diciamo che non ha neanche quasi linee di accettazione. Infatti, ad esempio, mentre Kickstarter cioè condanna non è la parola giusta, non vuole avere progetti vietati ai minori, dichiaratamente vietati ai minori, quindi diciamo che ci sono passate delle cose che erano un po' velate, tipo giochi per le coppie, giochi da tavolo per le coppie. Basta che non ci siano immagini oltraggiose, parole oltraggiose e Kickstarter lascia passare. Su Indiegogo queste cose ci possono essere. O comunque anche progetti che non sono progetti. Ad esempio, su Indiegogo ho visto raccolte fondi di ragazzini che volevano i soldi per comprarsi la Play 3. No, la Play 4, scusa. Sì, mi sembra strano che vogliono quella per la Sì, Play. infatti, cioè, cose ridicole che non sono neanche da. Cioè, non hanno senso di esistere, però vabbè, Indiegogo funziona così, ha deciso di essere più aperta. E allora, dicevamo, passano porcherie, nel senso che magari sono cose belle da vedere, ma che non funzionano poi. Ad esempio, non è una porcheria, ma è un esempio di Kickstarter molto affettato. Il gioco ha studi in Emerald, uno Sì, studio in uno studio smeraldo, smeraldo, ecco, sì. di Martin Wallace, basato sul racconto di, in questo momento mi sfugge, Ken Follett, no, non mi viene in mente, vabbè. Ma scusa, non sarà quello di Cthulhu? Vabbè. Non è. Vabbè, adesso non mi viene in mente neanche a me il nome. Comunque, a studi in Emerald è stato fatto con Lovecraft? Può darsi. di Neil Gaiman, no, non è di Lovecraft. Ok. Stavo dicendo, ah sì, esatto, è stato fatto come Kickstarter. La gente, appena ha visto Martin Wallace e Neil Gaiman, ha gettato i soldi. Il Kickstarter è stato fondato immediatamente. Il gioco è uscito che era completamente buggato, il regolamento era pieno di buchi, funzionava malissimo e lo stesso Wallace, prima che il gioco arrivasse, aveva dichiarato in un'intervista che il gioco era buggato perché non avevano testato abbastanza, cioè l'aveva dichiarato persino l'autore. Infatti, l'edizione italiana è una revised di questo gioco, cioè hanno preso il regolamento Kickstarter e l'hanno rifatto da capo. L'edizione italiana è diversa dal Kickstarter più di quanto dovrebbe essere, perché è proprio una revised edition. Questo è appunto la dimostrazione, cioè Kickstarter è una raccolta veloce di soldi. La gente ha una fretta, alcune case almeno, una fretta incredibile di raccogliere È i soldi. un investimento, cioè tu non hai, cioè non sei protetto comunque da questa cosa, cioè tu non hai la sicurezza che sia tutto perfetto. Anche perché per presentare Kickstarter ti basta avere un po' della grafica, quindi aver fatto lavorare il grafico. Magari se è un gioco di miniature, un po' di CAD di miniature, dipinti con Photoshop, le miniature non sono neanche mai state realizzate, magari. E sei a posto. In realtà il regolamento è spiegato a grandi linee. In realtà non hai fatto del beta testing, il regolamento non è ancora stato scritto, magari. E butti già sul progetto e raccogli i soldi. E se vogliamo Poi. andare ancora più nel profondo di questo discorso, addirittura ci sono stati casi di furto anche nel mondo dei giochi da tavola su Certo, Kickstarter. anzi, addirittura il mondo dei giochi da tavola è uno di quelli che ha più furti, perché è strano da dirsi, perché uno pensa ai giochi da tavola e dice una cosa di nicchia, ma il Kickstarter che ha raccolto più soldi in tutte le categorie è il Kickstarter di un gioco da tavola ed è successo anche da poco. È una notizia di un mesetto fa, che il gioco Kingdom Death Monster 2. Mi sembra che si chiama. Non mi ricordo. Mi sa che si Sì, chiama solo King Death Monster, però sarebbe la stagione 2, sì. forse Season 2. Ha raccolto 12 milioni di dollari, che è il record. E quindi dicevi dei furti. Spiega pure, Claudio, cosa è successo. Ah, il caso più importante nel mondo dei giochi a tavola è stato il famoso gioco che possiamo ricordarlo come il Monopoli di È Cthulhu. Atlantic City, aspetta. Sì, il nome è Venne da Atlantic City in l'orrore che venne Italia. da Atlantic City, una cosa simile. Un attimo, se te lo dico. Adesso non lo ricordo perché The comunque. Doom that came to Atlantic City. Ok. Ovvero il Monopoli Cthulhu. Sì. Il Monopoli di Cthulhu che ha raccolto parecchi soldi e a Ah, te fine lo progetto dico. praticamente è uscito fuori che il creatore del gioco cosa aveva terminato i soldi, com'è che No, è o era scappato coi scappato? Ah, se soldi. n'è andato con i Sì, soldi. no, è proprio scappato coi soldi, non ci ha neanche provato. Tuttavia dopo sono stati risarciti i Baker, cioè le persone che hanno investito i soldi e il gioco è stato rifatto dalla Renegade Game. Sì, no, non sono stati risarciti. Non, cioè, allora, Cioè, gli hanno dato la copia del gioco gratis. in realtà c'è stata sia un'azione legale contro il creatore, il tizio che è scappato con i soldi, perché Certamente, in strano. America, negli ultimi anni, questo tipo di furto tramite raccolta fondi ha dei precedenti di vittoria in tribunale, quindi ormai, diciamo, i Baker sono un po' più protetti da quel punto di vista, anche se comunque vuol dire che tutte queste persone prendono un unico avvocato contro una persona e se vincono vengono risarciti tutti. Quindi Quindi c'è stato sia un risarcimento per chi ha deciso di intraprendere l'azione legale, sia la casa, la Reneged Game, che dopo ha comprato i diritti del gioco e ha deciso di portarlo alla luce, ha spedito la copia a tutti gli acquirenti del Kickstarter. Sì, come risarcimento, diciamo, cioè comunque era il minimo. Beh, sì, non erano tenuti, perché non era colpa loro, però hanno fatto questa buona azione, che non erano tantissimi, perché erano 1246 Baker. Niente, in tutto il mondo non è una cifra esagerata di acquirenti, dai. Sì, comunque non è stato l'unico caso, questo è quello più famoso, ma come hai già detto succede, può succedere purtroppo. Già, E un però in questo altro. caso si tratta di privati, non sono case famose che hanno creato il gioco. Sì, è uno studio piccolino che si chiamava The Forking Path, ma era il suo primo progetto, quindi sì, Era la era un sua privato prima che truffa, aveva messo su. chiamiamola. Eh? La sua prima truffa, si può anche Sì, dire. esatto, un privato che ha messo su, cioè ha messo su, ha deciso un nome per uno studio perché doveva creare un gioco e si è vista com'è finita. E dopo di questo. Invece un altro famoso progetto andato male da questo punto di vista è il remake di Upfront, che ha rubato molti più soldi di questo caso. Upfront è un wargame degli anni 80, se non sbaglio, adesso ci guardo per sicurezza, ecco, Dell'83. che è uno dei più fedeli e completi sulla Seconda Guerra Mondiale, perché tenta di includere praticamente tutti i fronti e tutti gli schieramenti che ci sono stati, e essendo molto raro, c'era molta gente che non vedeva l'ora che uscisse, tutti i wargamer del mondo non vedevano l'ora, anche perché comunque magari gli mancava tale espansione, insomma è un gioco che era difficile da trovare. E uscì il Kickstarter per la nuova edizione di Upfront. E il tizio praticamente che ha lanciato il Kickstarter veniva dal fallimento della sua precedente azienda e ha usato i soldi del Kickstarter per pagare i debiti dell'azienda precedente. Quindi Upfront non è mai venuto alla luce, Mamma purtroppo. mia. E tra l'altro, tra i fregati, diciamo, i Baker che sono stati fregati in questa truffa, ci sono anche dei nostri conoscenti di Forlì, Sì. purtroppo, e ci dispiace tanto che sia finita così. Quindi la cosa ci ha toccato anche personalmente, purtroppo. Adesso non riesco più a trovare la pagina Kickstarter perché probabilmente è stata chiusa. Sì, ma poi comunque quanto è stato 3 anni fa più o meno, una cosa simile. Ah, tra l'altro esiste un sito che si chiama Kickscammed, che Sì. parla appunto dei Delle progetti che hanno truffe. rubato i soldi, sì, perché scam. Allora, i Baker erano 2400 per Upfront e ha rubato il tizio 340 mila dollari, in realtà un po' meno, perché il 10% è andato a Kickstarter, quindi comunque, beh, 340 mila dollari non sono pochi. Vediamo se Kickscammed, che abbiamo appena scoperto, ha la sezione board game, così magari troviamo. No, non ha una ricerca per categorie. Ah, sì che ce l'ha. No, beh, la categoria. Eh sì, però le categorie sono il tipo di truffa, quindi niente. Ma sì, Peccato ma perché. possiamo anche sorvolare dopo un po', cioè. No, Tanto se peccato ce ne sono perché così era tanti. interessante vedere ad esempio quanti ce ne erano. Cioè, ad esempio, per dire, visto che stiamo parlando di questo argomento, già nel 2017 su Kickscammed, quindi questo sito che riassume gli scam, i furti, le truffe su Kickstarter, il 2017 io ne vedo già una buona decina, eh. Però sono progetti che sono finiti nel 2017, cioè che dovevano arrivare quest'anno. No, no, O sono progetti che di sono gennaio e di iniziati. febbraio sono. Perché ci sono Ma vari come si tipi fa a di tu. essere. Ah, te lo Cioè, spiego però subito. aspetta, sì, perché il gioco deve arrivare dopo un tot di anni di solito o mesi. Come si fa ad aver già scoperto che è una truffa? Ah, te lo spiego. Ad esempio, mi viene in mente un progetto di un videogioco che doveva essere questo rivoluzionario gioco open world. dove il creatore aveva postato queste immagini bellissime di questi mondi. Uno dei Baker, cioè anzi non uno dei Baker, una delle persone che ha visto la pagina, si è accorto che quegli sfondi utilizzati erano di un artista digitale che postava su un sito tipo ArtStation. E allora questa persona che se n'è accorta e che ha visto che nel progetto non sembrava essere coinvolto questo artista, ha contattato privatamente l'artista e lui ha detto: Sì. "Oh, guarda, io non ho fatto quei fondi per il Kickstarter, questo tizio li ha presi dalla mia galleria e li ha messi." Allora l'artista ha contattato Kickstarter e ha detto: "Guardate che questa persona no, sta utilizzando le mie opere digitali senza permesso e io non sto lavorando al suo videogioco." Hanno indagato e questo qui era uno che ha creato ad hoc questo progetto rubando immagini di artisti semi sconosciuti su internet, che quindi solo 1.000 persone conoscevano magari, e Sì. su Kickstarter non sarebbero mai arrivate, e aveva già raccolto qualche migliaio di dollari, Però questi non sono mai partiti, quindi perché l'hanno scoperto prima. eh? Esatto, e quindi esiste anche Ok. questo caso di truffa, cioè gente che viene scoperta a vendere un prodotto Fumando. che non è, che, cioè, già durante la raccolta fondi viene scoperta. O addirittura esiste la categoria reselling existing product, Ah. cioè gente che con Kickstarter vende cose o promette cose che già sono state realizzate Ho e capito. magari non fatte da loro. È veramente assurda questa cosa, vabbè. Sì, essendo un mondo così grande dove girano un sacco di soldi, è normale che la gente ne approfitti per cercare di truffare. Certo, anche perché di soldi ne girano veramente tanti. Comunque chi ha rubato e l'ha fatta franca c'è, quindi. Vabbè, abbiamo parlato di crowdfunding in generale, passiamo un po' ai giochi da tavolo e il crowdfunding. Sì, allora, vediamo un po' i casi un po' più clamorosi, che hanno fatto più soldi. Iniziamo magari con i party game, perché tanto bisogna passarci, Purtroppo. purtroppo. Ah, Purtroppo i una party game cosa, bisogna giusto. passarci. Parlando di crowdfunding, anche noi in Italia abbiamo il nostro crowdfunding, ma dal punto di vista dei giochi, anzi, ne abbiamo due in realtà, perché c'è sia giochi Sì. E starter, che è un ottimo crowdfunding, poi abbiamo e Eppela, che è poi abbiamo quello europeo. Eppela, che invece dal punto di vista dei giochi da tavola ha delle vere e proprie. È come Indiegogo, diciamo, si apre un po' più a tutte le varie idee, anche quelle un po' più sporche, chiamiamole, Allora, diciamola così. in realtà, per contatti che ho avuto, posso dirti che su Eppela c'è molto controllo, cioè vengono scelti Ok. pochi progetti che passano e diciamo che c'è una base di conoscenza e di professionalità, cioè tu sconosciuto, prima di poter mettere un gioco su Eppela, devi passare certi contatti, ecco. Ok. Quindi non è così facile entrare su Eppela e c'è molta programmazione, cioè il progetto dopo che è stato accettato c'è molta fase di costruzione prima che venga aperto. Però dal punto di vista dei giochi da tavolo almeno ci sono delle gran cavolate perché è il tipo di giochi che fanno soldi, cioè ci sono giochi di Sì. molto stupidi, diciamo, non parliamo di tutti, ma ci sono. Perché sono quelli che vendono, cioè roba alla squillo, ecco, per dirla tutta. Ma quel progetto alla Squill è stato fatto dal suo stesso autore, quindi è un nome già affermato da per quello che è presente, probabilmente. Sì, lo so. E comunque in generale ci sono dei munchkinoidi, quindi giochi privi di idee basati su una meccanica molto semplice. Purtroppo la maggior parte dei prototipi e dei giochi proposti nei crowdfunding sono di quel genere perché sono ultra semplici, quindi si trovano ovunque giochi di animali che si picchiano. O Babbo Natale o cose blasfeme, insomma, diciamo che sfruttano sempre questi temi un po' troppo satirici. Cioè, diciamo una cosa, Munchkin a suo tempo è stata un'ottima idea, tanto di cappello alla Steve Jackson Game, Ma vabbè. inoltre Munchkin comunque non è così estremista, cioè è un giochino con delle battutine da con delle freddure o battutine, sì, mentre adesso questi progetti qui diciamo che iniziano un po' a esagerare, Sì. si basano Ecco. più su tematiche un po' più blasfeme. dove non bisognerebbe scherzare, diciamo. Quello che volevo dire è che Munchkin non è che è il male, ha fatto, è stata un'ottima idea e tanto di cappello e può piacere ovviamente. Quello che fa la Steve Jackson Game con Munchkin, ovvero sfruttarlo in tutte le salse, è insopportabile, ma va bene. Che qualsiasi persona che abbia giocato Munchkin crea il suo gioco da tavola che è uguale a Munchkin con un tema ridicolo o a volte anche offensivo, ha veramente stancato. Cioè, negli ultimi 2 anni penso di aver visto solo nelle fiere italiane, solo da creatori indipendenti, almeno 8 versioni di Munchkin. E Sì, posso essere d'accordo. non ne posso più. La semplicità. Non ci sono più gli autori di una volta. No, infatti, non nascono Bauza e Faidutti e Wallace e Knizia e Rosenberg continuamente. Io ci ho provato, adesso magari in futuro. Bene, bene, bene, andiamo, proseguiamo. Sì, allora, stavamo parlando quindi dei party game, quindi rimanendo in tema di questo genere di giochi molto spiccioli, come mi piace definirli a me, il caso più eclatante, che sicuramente avete sentito parlare anche perché purtroppo lo troviamo nei negozi, purtroppo lo dico io perché mi sembra molto ridicolo, è il gioco che si chiama Exploding Kittens, che ha fatto 8 milioni e 782 mila dollari. E ricordiamo che prima di Kingdom Death Monster, quindi prima di un mese fa, era il board game che aveva fatto più soldi. Ed è un gioco di carte, tra l'altro, quindi non è che è proprio questo grandissimo gioco da tavola, cioè è proprio un giochino. E se volete proprio sapere un piccolo dettaglio del gioco, è una roulette russa dove il primo che trova un gatto che esplode è eliminato dal gioco. Questo è il concetto del gioco. E semplicemente che cosa ha fatto l'autore? Ha preso i gatti, che sono una delle cose che piacciono molto, infatti ci sono un sacco di giochi da tavola che sfruttano il tema gatto per vendere tanto, come giochi come Nekoin, che è palesemente un caso molto commerciale perché i gattini con gli occhioni sono fatti apposta per vendere, o anche Micho Miao, che è un qualunque gioco di destrezza con i gatti in mezzo. Già. E quindi ha preso i gatti e li ha uniti a delle esplosioni, perché i gatti piacciono tanto e le cose che esplodono a quanto pare anche quelle piacciono. Ha unito due tematiche a caso che a quanto pare attraggono anche più grande fetta di casual gamer, e soprattutto casual gamer che sono agli inizi e quindi giocano ai giochi tipo Munchkin, giochi semplicissimi di carte. Quindi questo è un gioco semplicissimo di carte dove probabilmente la meccanica gioca a se stessa, quindi tu non dovrai fare probabilmente neanche niente. Diciamo che sarà uno di quei giochi dove adesso non. Il regolamento non lo conosco, ma non ho grandi aspettative per il regolamento di un gioco del genere. Suppongo sarà un gioco con una mano di carte dove potrei giocare massimo uno o due, o usare carte dal mazzo tipo Munchkin. Sicuramente non è un gioco che darà molto alla tattica, direi. Anzi, essendo un party game sarà molto sciocco. Tuttavia, vedo che su Board Game Geek, il nostro buon sito americano, non è molto apprezzato e non ha preso grandissimi voti, probabilmente perché il risultato finale non era quello aspettato. Però sai com'è, quando prendi dei temi che attirano, i soldi volano come fiocchi di neve. Hai voglia. E ricordiamo che lo troviamo nei negozi a 30 euro questo gioco, un gioco di carte. Dio, 30 Cioè, euro. se io mi lamentavo per Citadels per 20 euro. Cioè, veramente, con 30 euro io ti posso fare una lista di almeno 3 giochi più belli con un'idea migliore. Cioè, 3, eh. Sì, sono un po' pochi. Cioè, possiamo fare anche 30. No, 30 no, 30 giochi da 1 euro, no, no, no, non hai capito, con lo stesso prezzo tu puoi Ah, comprare 3 giochi ok. di carte migliori. Ah, sicuramente, tipo uno Skull King per dire. DAO, DAO, sì. Esatto. Kobayakawa, Wild Arena, voglia, c'è una lista infinita, cioè, C'è Nimt, sì, ce ne sono esatto, quanti ne vuoi. prendi il catalogo dell'Amigo e allo stesso prezzo di quel gioco del cavolo c'è il mondo. Vabbè, adesso noi non lo conosciamo, però diciamo che non sembra effettivamente un gran gioco. E il suo prezzo sicuramente non è molto sensato, considerando che sono solo carte e neanche tantissimo. Ok. Volevo dire un paio di cose. Innanzitutto che è finito il Kickstarter di Medioevo Universale, che ne Ah. abbiamo parlato, il gioco italiano che era in beta, in prototipo da 10 anni almeno, che dovrebbe ricreare l'atmosfera di un Medieval Total War. E Medioevo Universalis ce l'ha fatta, ha raccolto 150.000 euro e ha 718 backers. Ottimo, ottimo. Complimenti agli autori e all'autore più che altro, a tutto il suo team e a Jokix per questo ottimo progetto italiano. E avremo un nuovo mattone nei negozi, questo bel giocone gigante, Ma perché è enorme quel gioco. da quello che dicono ne arriveranno poche di copie nei negozi, anche perché la versione retail costerà 300 euro. Ah, capisco. Quindi i negozi che decideranno di tenere sui scaffali un gioco da 300 euro non so quanti possono essere. Però magari alle fiere, esatto, anche perché Jokix comunque è presente alle fiere, anzi al Play ci sarà, non avrà Medioevo Universalis perché la produzione durerà parecchio, sarà in consegna a dicembre. L'anno prossimo al Play, ad esempio, si potranno trovare delle copie di Medieval Universalis, per dire. Ed questo è bellissimo perché questa persona ha realizzato il suo sogno grazie a Kickstarter ed è andata molto bene, che altrimenti non ce l'avrebbe potuta fare perché è un gioco che costa tantissimo di produzione e l'ha realizzato, ok, ma con 800 acquirenti, 800 persone che l'avrebbero comprato in Italia non c'erano probabilmente. In tutto il mondo, grazie a internet, invece si è riuscito a realizzare questo fantastico progetto e sono molto contento per lui. Condividiamo quindi questo bel momento di gioia. Ok. Dovrebbe essere finito anche il Kickstarter del mio amato Shared Dreams, l'unico Kickstarter che mi ha che mi ha tentato di pledgeare. Vediamo un po'. No, mancano 15 giorni ancora, e voglia. E tra l'altro Di ha meno resistenza. Baker di Medioevo Universale, Shared Dream, per dire. Quindi, ottimo per Medioevo Probabilmente Universale. ha dei pledge molto alti. Beh, questo non lo so, però comunque Shared Dream non vedo l'ora di averlo. Comunque, una curiosità, abbiamo detto che Exploding Kittens ha venduto 8.782.000 e così via. Giochi invece del calibro di Zombicide Black Plague, che è quello che ha venduto più di tutti i Zombicide, hanno fatto la metà di quanto ha fatto Exploding Kittens, 4 milioni, la metà. Vabbè, i primi Zombicide facevano qualche centinaio di migliaio di dollari. Tra l'altro, i crowdfunding, seguendo le tendenze, vanno molto meno di qualche anno fa. Ci sono molti meno baker e viene investito molto meno denaro, tranne nei giochi da tavolo. E infatti è per questo che i giochi da tavolo hanno vinto la categoria con Kingdom Death, hanno Ma vinto. questo l'abbiamo spiegato prima, perché adesso le case produttrici famose usano Kickstarter, quindi sono Certo. giochi che tu hai la sicurezza che ti arriveranno, perché è una casa famosa. Se una casa famosa Ecco. ti truffa, quella casa famosa non vende più nulla, perché nessuno si fida più. Certo, ovviamente è la sicurezza che non ti truffa e per loro è fantastico, cioè non devono investire soldi sperando in un guadagno, hanno subito i soldi e tutto guadagno, cioè è fantastico per loro. Quindi il discorso è: i giochi da tavola vanno molto perché il loro nuovo, diciamo che Sì, la sì. loro macchina di produzione è il crowdfunding Anche adesso. perché il gioco da tavola, appunto, per vendere tanto deve raggiungere tutto il mondo e il crowdfunding ti dà la possibilità a te, casa editrice americana, di vendere già direttamente senza passare da distributori vari all'acquirente australiano, all'acquirente svizzero, all'acquirente indonesiano e così via. Che è una manna dal cielo, cioè. Va bene. Ho alcuni link utili da lasciare. Riguardanti il mondo dei crowdfunding. Allora, innanzitutto, per rimanere aggiornati su tutti i crowdfunding attivi sul mondo dei giochi da tavolo, un sito molto utile è boardgaming.com, dove ogni settimana viene fatto il riepilogo di tutti i Kickstarter a tema giochi da tavolo. Mentre per quanto riguarda, altrimenti si può usare l'ottimo Tabletop Gaming News, che viene aggiornato quasi tutti i giorni, su informazioni nel mondo dei giochi da tavolo, mentre per il mondo delle miniature, Tabletop Fix, che è un blog che viene aggiornato 2 o 3 volte al giorno con tutte le uscite sul mondo delle miniature e compresi i Kickstarter. Poi, questo è per rimanere aggiornati sulle notizie. Mentre per chi sognasse magari un giorno di realizzare il proprio gioco da tavolo su su un crowdfunding, attraverso un crowdfunding, ci sono vari modi. Allora, innanzitutto per noi italiani esiste Zokix che prende in considerazione progetti da proporre sulla loro piattaforma, su Jockeystarter, e aiutano nella fase di produzione in quanto sono un editore e hanno esperienza nel settore. Se invece non si vuole passare da un editore e si vuole passare direttamente alla produzione, ci sono vari modi. Allora, abbiamo l'americano The Game Crafter, che, come parlavamo qualche episodio fa durante l'episodio della wishlist, ha i suoi difetti. Allora, The Game Crafter ha dei prezzi altissimi e dei materiali un po' caserecci, Sì, diciamo. inoltre trovandosi in America ha anche i costi di spedizione. Madonna, durante la puntata dei wishlist dicevo che avrei voluto acquistare Sultans and Kings o Kings and Sultans, questo non mi Sì. ricordo. Oggi che volevo usare il mio stipendio per fare un acquisto per me per questo mese, ho detto: oh, questo è il mese che lo compro, vado a metterlo nel carrello, il gioco costa 39 dollari e 50 dollari di spedizione. E quindi ho capito che non avrò mai una copia di Sultans and Kings, Se non vai purtroppo. direttamente in America, no. No. Vabbè, comunque, il problema anche di The Game Crafter è che questo è abbastanza ridicolo. Per poter avere il supporto di The Game Crafter per la produzione di un Kickstarter, bisogna pagare 30 dollari in modo che loro visionino il vostro gioco, cioè gli pa pagate il loro tempo che useranno per visionare il vostro Per leggere i progetto regolamenti. e potrebbero scartarlo, attenzione, quindi potreste aver pagato 30 dollari per essere scartati. Magari è troppo lungo il regolamento. 30 dollari sono pochi. C'è da dire che The Game Crafter ha un ottimo seguito. Anche se ha una nomea non ottima in America, c'è molta gente diffidente, non per il sito che truffa o cose simili, ma per la qualità dei progetti che ci sono, perché non c'è un gran filtro e passa di tutto. Però The Game Crafter si occuperà di quasi tutta la produzione del gioco, sia dalla stampa, confezionamento e spedizione. Quindi tu, autore, devi occuparti della creazione grafica del progetto, delle regole, delle carte, quello che è, ma dopodiché, una volta arrivati i soldi, tu gli mandi la cifra che devi mandargli dopo che ti hanno fatto il preventivo e fino alla spedizione fanno tutto loro, spedizione compresa. Quindi te sei a posto, non devi preoccuparti di spedire un pacco in Australia, guardare quanto costa, le spese, le tasse, tutto il resto, quello ci pensano loro. Ma da questo punto di vista c'è di meglio. C'è una ditta cinese che si chiama Wingo, Wingo, e il sito è www.wingogames.com, che non solo fa tutto questo, ma vi può prestare, può fornire anche servizio di grafica e scultura e produzione miniature. Cioè, questa ditta, se tu sei una persona che ha in mente il gioco, ha in mente il regolamento, non ha la grafica, non ha niente, ha soltanto le regole, loro ti segu possono seguirti per tutta la produzione, mettendoti a loro disposizione i loro grafici e i loro scultori 3D e tutto il resto, fino appunto al crowdfunding stesso, dove ti presteranno aiuto anche lì con il loro sistema di PR. E insomma, praticamente devi considerare che la maggior parte dei soldi del crowdfunding andrà a loro, perché comunque diciamo che di servizio ce n'è molto dietro. Però tu, persona con un sogno, diciamo, persona qualunque che vuole entrare nel mondo dei giochi da tavola, può produrre un gioco di qualità veramente professionale, perché già nel sito Wingo Games si possono vedere dei prodotti che hanno fatto in passato. E ci sono dei giochi veramente, veramente professionali. Alcuni si vede che sono più indie, altri invece non lo si direbbe. Bene. Quindi, che state aspettando? Se avete il vostro gioco nel cassetto da tanto tempo, io vi ho dato alcuni indirizzi, ce ne sono altri. Adesso, in questo momento mi sfugge, c'era anche un sito europeo sulla creazione di giochi, ma in questo momento mi sfugge. Comunque basta una ricerca. Direi che siamo a posto così. In realtà di giochi da tavolo abbiamo parlato poco, abbiamo parlato più di crowdfunding in sé. Ma sì, era l'argomento generale. Comunque, se qualcuno vuole provare a fare un Kickstarter con l'aiuto anche di queste ditte, ben venga, anche perché comunque fanno un ottimo lavoro, a quanto sembra. Però bisogna comunque stare attenti alle case produttrici che sono sempre in agguato con i loro gioconi. Ok. Una cosa che posso dire da persona che ha creato un Kickstarter e ha fallito, la cosa fondamentale, ma fondamentale, è la pubblicità. Bisogna pagare Google AdSense, bisogna anche pagare i recensori, perché altrimenti la gente in tutto quel marasma di progetti, nel vostro progetto non ci arriva. Purtroppo bisogna investire nella pubblicità. Io non l'ho fatto e ho visto com'è andata. State sicuri che appena creato un progetto e appena questo compare nella lista dei progetti, verrete contattati da almeno 3-5 persone al giorno che tenteranno di vendervi i loro servizi di PR e avranno dei siti farlocchi fatti con dei template e robe patetiche e chiederanno cifre assurde, dai 15 dollari per un tweet a 30 per un post di Facebook. Per un tweet. Sì, c'era 15 dollari per un tweet. Va bene. Ok. Sì, insomma, è un mare di squali. Sì, no, quello è poco ma sicuro. È una vasca di squali, anche perché i soldi girano lì e quindi tutti vogliono magnà. Va bene. Speriamo di aver fatto cosa gradita parlando di crowdfunding per chi non ne sapeva niente, magari era interessato, o per chi già ne sapeva, ma ha scoperto cose nuove, magari tramite noi, speriamo. O comunque di avervi intrattenuto, a noi basta avervi intrattenuto. Ma sì, sono opinioni, poi dopo se sembriamo cattivi è perché lo siamo veramente, ma non è un problema nostro quello. No, cattivi no, dai, siamo alla mano. Vabbè. Ok. Pronti a chiudere la puntata? Vediamo cosa c'è da dire. Niente, perché Rovigo, la fiera dell'elettronica Rovigo che faremo questo weekend, ovvero questo weekend quando noi stiamo registrando, quando la puntata andrà in onda, ci sarà già stata. Esatto, E quindi. quindi ne parliamo nel prossimo episodio di com'è andata. Sì, non ti metterò a prevedere il passato adesso in diretta. Ok. C'è da dire che, ah, una cosa, vi avevo detto che quando parlavo della wishlist, Coloni Imperiali sarebbe stato il mio prossimo acquisto, adesso ho Coloni Imperiali con le espansioni. Sì, questo venerdì giochiamo Coloni Imperiali. Sì, Avremmo giocato con l'Imperiale. Io provo. giusto, è vero, Ok. sì. Ok, venerdì scorso abbiamo giocato con Coloni Va bene. Imperiali. Quindi con gli appuntamenti associativi ne parliamo più avanti perché il prossimo appuntamento associativo dopo Rovigo è abbastanza avanti, è verso maggio. Vi invitiamo a condividere il podcast, farci conoscere i vostri amici, aiutateci a crescere e a raggiungere nuove orecchie. Ringraziamo Radio Big World perché ci ospita come sempre e vi invitiamo a venirci ad ascoltare anche la prossima settimana sulle solite frequenze, ovvero radiobigworld.com o il suo canale SoundCloud. Vi salutiamo qui. Da alla conquista del gioco è tutto, alla prossima puntata. Sentiamo il prossimo lunedì. Ciao ciao. Ciao.